Amici, dunque il nostro libro, Il Falsario, la lotta quotidiana contro Satana. E stiamo facendo il capitolo settimo, che è un capitolo fondamentale sotto il profilo teologico, in quanto sottolinea quello che è certamente la luce fondamentale del Vangelo, e cioè la redenzione, cioè la vittoria di Cristo contro Satana. E abbiamo ieri, nell'apertura di questo capitolo, poi naturalmente il capitolo ottavo metterà in evidenza come Maria associata a questa vittoria di Cristo contro Satana, e quindi come lei è la Vergine potente contro il male, e proprio per la profezia della Genesi: io porrò inimicizia fra te e la donna. Quindi c'è una duplice inimicizia fra Satana e la donna, fra la stirpe della donna che è Cristo e Satana. Allora, non si può parlare certamente della vittoria di Cristo su Satana senza vedere associata la madre. Vi dicevo che l'annuncio della vittoria di Cristo su Satana sta nel cuore stesso del Vangelo, però abbiamo detto, cari amici, che questa vittoria di Cristo su Satana non è tale, così ha stabilito la Divina Provvidenza, da togliere la presenza di Satana dalla terra. È una vittoria fondamentale, ma non quella definitiva, perché la eliminazione di Satana, in qualche modo, la sua, non so come dire, la sua espulsione, e quindi la sua impossibilità a nuocere, avverrà alla fine dei tempi, quando appunto con la seconda venuta di Cristo Satana e tutti coloro che l'hanno seguito verranno rinchiusi nello stagno di fuoco e di zolfo, secondo appunto le parole stesse di Cristo: via da me maledetti nel fuoco eterno preparato per il diavolo e per i suoi angeli. E allora Satana non avrà più nessun potere di interferire nel regno del bene, non avrà nessun potere per far del male. Allora, cari amici, quello che mi preme sottolineare però è questo: anche se dopo la vittoria di Cristo con la sua passione e con la sua morte, anche se dopo la vittoria di Cristo sul demonio, la sua presenza è corposa, visibile, incisiva in questo mondo, e lo vediamo soprattutto dal libro dell'Apocalisse quanto la presenza di Satana sia ancora più rabbiosa, ancora più provocatoria di prima. Tuttavia ora abbiamo le armi della vittoria, cioè Cristo ci rende partecipi della sua vittoria. Le armi della vittoria, cari amici, sono la fede, la preghiera e naturalmente tutte quelle armi che ci mette a disposizione la Chiesa, in particolare i sacramenti della confessione e dell'Eucaristia. Quindi, certamente, anche dopo la vittoria di Cristo, Satana opera, anzi opera ancora con maggior furia, ma è come se fosse un leone o un drago incatenato, per cui afferra e distrugge soltanto quelli che si accostano a lui. Ora, nel capitolo di oggi, cari amici, vorrei mettere in evidenza come il Vangelo sottolinea la vittoria di Cristo sul demonio, e come appunto ci si allontanerebbe dai Vangeli se noi non cogliessimo questo aspetto che è messo in evidenza, ma tutto il Nuovo Testamento, cioè lo scontro frontale fra il Figlio di Dio fatto uomo da una parte e Satana dall'altra. È uno scontro frontale che è iniziato subito fin dall'inizio della vita pubblica di Gesù, con le tentazioni nel deserto, che è proseguito in tutta la sua vita, che ha trovato l'apice nella passione, quando Satana entra in Giuda per eliminare Cristo, no? E quindi uno scontro frontale, cioè i Vangeli presentano uno scontro frontale fra il nuovo Adamo, Gesù Cristo, e Satana, il principe di questo mondo. Questo duello, come vi dicevo e come vedremo, all'apice nella passione, questo scontro ha un esito ben preciso, e cioè la vittoria di Cristo. La vittoria di Cristo su Satana, la vittoria del bene sul male, anche se, come vi dicevo, Satana ha il permesso, il potere di insidiare gli uomini fino alla fine del mondo. Però ora agli uomini sono date le armi per poterlo umiliare, per poterlo vincere. Voi vi chiedete, ma perché è stato dato al maligno questo potere? Ma evidentemente, cari amici, perché la salvezza, oltre che essere una grazia, deve essere anche un merito, ma anche perché noi possiamo prenderci la nostra rivincita su Satana e umiliarlo con la potenza di Cristo. Vediamo dunque il secondo paragrafo del capitolo settimo. Il capitolo settimo è intitolato La vittoria di Cristo. Ieri abbiamo visto la profezia dell'Eden. Oggi vediamo come Cristo, il nuovo Adamo, ha affrontato il maligno. Per chi ha in mano il mio libro, Il Falsario, siamo a pagina 47. Come al solito, leggiamo e commentiamo. Gesù Cristo è il vincitore del peccato, del male e della morte, perché ha trionfato su Satana. Questo è evidente nei Vangeli, come anche l'insegnamento che troviamo nel Catechismo della Chiesa Cattolica. I Vangeli traboccano di questa vittoria, che è già evidente nella vita pubblica di Gesù, quando i demoni sono costretti a venire allo scoperto dallo splendore della sua luce e a fuggire atterriti al comando della sua parola. Cioè, incredibile come a Gesù succede quello che è mai successo nella vita di nessun profeta, né di Giovanni Battista, né di altri profeti. Voi vedete i testi della Bibbia dove si vede, dove vengono presentati i profeti, in particolare i più santi, come Elia, per esempio, oppure come Giovanni Battista, voi vedrete che non si parla mai di demoni. Soltanto quando si presenta Gesù si scatenano le potenze del male. La vita di Gesù è piena di demoni che lo insidiano, che escono dagli indemoniati, che si manifestano, che lo tentano, che lo perseguitano in tutti i modi. Un fatto che non trovate in nessun testo della Scrittura. Perché? Perché è la santità stessa di Dio che è venuta in questo mondo, e quindi le tenebre, è come quando ci mette la luce e gli scarafaggi scappano da tutte le parti della casa. Quando è venuta la luce i demoni sono messi in evidenza, e il principe delle tenebre deve scoprirsi, si scopre, non sopporta la luce di Cristo, non la sopporta. Quindi, quando inizia la vita pubblica di Gesù, i demoni sono costretti a venire allo scoperto dallo splendore della sua luce e sono costretti a fuggire atterriti al comando della sua parola. Le dicevo, questo accade con nessuna altra personalità della Scrittura precedente a Gesù. Poi naturalmente in seguito sì, perché anche gli apostoli, anche i cristiani partecipano di questa potenza e santità di Cristo. L'antico avversario sa di avere di fronte il seme della donna di cui parla la profezia. Quindi il demonio si atterrisce quando si presenta a Gesù, perché il demonio conosce benissimo la profezia, no? Che è stata rivolta da Dio stesso a lui. E porrò in inimicizia fra te e la donna, fra la sua stirpe e la tua stirpe. Lei ti schiaccerà la testa, lei, cioè la stirpe della donna. Quindi il demonio sa che si avvicina il momento in cui gli viene schiacciata la testa e cerca in tutti i modi di evitarlo. Cerca in tutti i modi di eliminare Cristo dalla faccia della terra. Satana si avvicina al nuovo Adamo, cioè a Gesù nel deserto, nulla risparmiando della sua potenza di seduzione. Si rende conto che se non vince la sua rovina è vicina. Si allontana sconfitto dopo le tentazioni nel deserto, mentre medita una diversa e più feroce insidia. Quando non prevale con l'arma della seduzione, Satana, pieno di rabbia, usa quella della distruzione. Cioè nel deserto Satana ha usato l'arma della seduzione, nei confronti di Cristo, presentando a lui i regni della terra, il prestigio, la gloria, la potenza di miracolo, il trionfo, eccetera, non è riuscito con la seduzione. Quando Satana non riesce con la seduzione, insidia con l'arma dello scoraggiamento, vede Getsemani. Il Getsemani ha, nella intenzione degli evangelisti, un paragone con l'orto e gli ulivi, e in qualche modo l'Eden, dove il nuovo Adamo vince la tentazione dello scoraggiamento, e vince la tentazione di rifiutare la croce. Quindi vedete come Satana, proprio nei confronti di Cristo, usa tutta la potenza del suo arsenale. Il suo arsenale ha tre armi micidiali, cari amici, che sono la seduzione, lo scoraggiamento, la persecuzione, la distruzione. Ecco, quando Satana non prevale con l'arma della seduzione, pieno di rabbia usa quella della distruzione. Ma intanto il regno del male trema per la prima volta e vacilla fin dalle sue fondamenta. Noi lo vediamo nei Vangeli, cari amici, come il regno del male trema, esce allo scoperto. È arrivato il santo che lo mette veramente in discussione. Gli altri li facevano soltanto solletico. Basta, grida un demonio immondo. Che abbiamo a che fare con te, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Pensate, Satana, come i demoni, come hanno percepito la potenza di Cristo. Si rivolgono a lui dicendo, sei venuto a rovinarci? Capiscono che da lui viene la rovina. Da nessun altro, cari amici, di nessun altro, di nessun grande profeta, i demoni avevano mai detto una cosa del genere. Perché? E lo dicono anche loro. So bene chi sei, il santo di Dio. Il santo di Dio vuol dire il figlio di Dio. Perché di Dio solo è la santità. Quindi i demoni sono i primi che percepiscono la presenza del Verbo incarnato in Cristo, percepiscono la sua santità, la sua potenza. Molti di voi ci chiederanno, ma perché Satana l'ha tentato ugualmente, sapendo che veniva sconfitto? Perché Satana nel suo orgoglio si illude sempre di poter vincere. Quindi, quando appare Cristo nella sua vita pubblica, il regno del male trema, cari amici, il regno del male. Perché? Perché sa che ha di fronte il figlio di Dio, non un profeta qualsiasi. Un profeta qualsiasi, Satana riuscirebbe sempre a ingannarlo, ma mai potrebbe ingannare il figlio di Dio. E non c'è dubbio, cari amici, questo appare evidente nella semplice lettura del Vangelo, non c'è dubbio che la vittoria di Cristo su Satana e sul regno del male sia il tema di fondo del Nuovo Testamento, perché poi continua anche questa tematica della vittoria da Cristo, continua nel Nuovo Testamento con ciò che è il prolungamento di Cristo, cioè la Chiesa. E come evidenzia molto bene il capitolo 12 dell'Apocalisse, no? Cioè, avendo cercato di ghermire il figlio, non essendoci riuscito, ecco che Satana fa guerra alla donna, cioè alla Chiesa e a Maria. Quindi vedete, cari amici, come dei Vangeli appare con tutta chiarezza il terrore del potere del male di fronte a Cristo, e come la vittoria di Cristo su Satana e sul suo regno di morte sia il tema di fondo dei Vangeli. Perché la redenzione è riscatto dal maligno. Perché dietro il male, dietro il peccato, c'è il maligno, c'è il forte, il principe di questo mondo, come lo chiama Gesù Cristo. E Gesù, vedi Marco 3,22-30, un testo importantissimo, Gesù, cari amici, non esita ad affermare che la prova sicura che il regno di Dio, cioè che il figlio di Dio, è ormai presente, è data dal fatto che i demoni vengono cacciati e le persone liberate, cioè il fatto che i demoni sono cacciati e le persone liberate è il segno della sua divinità, perché il regno di Dio, come diceva il grandissimo teologo Origene, è Gesù Cristo, autos basileia, diceva, lui è il regno di Dio. La prova sicura che il regno di Dio, cioè che il figlio di Dio è in mezzo a noi, è il fatto che i demoni vengono cacciati e le persone liberate, Marco 3,22-30. Ma qual è la ragione di fondo per cui con la venuta di Cristo il regno del male incomincia a sgretolarsi? ti rispondo dicendo che va ricercata nel mistero stesso della persona di Gesù, cioè la potenza divina di Cristo. Il terrore dei demoni sta a indicare la divinità di Cristo. Se il nuovo Adamo fosse solo un uomo, Satana non avrebbe molto da temere. L'antico serpente non aveva forse vinto il primo Adamo quando costui, il primo Adamo, erano lo splendore della sua santità? Quindi, indubbiamente, cari amici, se Cristo fosse stato semplicemente un uomo, Satana avrebbe potuto dormire sonni tranquilli, perché avrebbe pensato, beh, ho fatto fuori il primo Adamo, con tutti i doni che ha avuto, figuriamoci questo, se non lo faccio fuori. Se fosse un profeta col peccato originale, eccetera. Per lui era uno scherzetto. E invece, cari amici, il terrore di Satana è causato dal fatto che ha percepito che ha di fronte il santo, cioè colui che non è macchiato dal peccato originale, che è la santità stessa, cioè la divinità stessa. La rovina quindi di Satana e dell'impero del male è da ricercare nella stessa venuta di Dio sulla terra. Questo terrore dei demoni, questa paura del demonio, questa angoscia del demonio, che grida, come dice appunto Luca 4,34, che grida basta, che abbiamo a che fare con te Gesù Nazareno, sei venuto a rovinarci, so bene chi sei, il santo di Dio. I demoni stessi riconoscono dalla potenza di Cristo, riconoscono la sua divinità. Gesù è il Verbo di Dio fatto uomo. Satana non ha di fronte a sé un semplice uomo, ma l'uomo Dio. Contro di lui non può nulla. Le ha tentate tutte, ma non ha ottenuto niente, cari amici. La sua sconfitta è già incominciata nel momento dell'incarnazione. Con il sì di Maria, il Verbo si fa carne e il regno di Dio pone le sue radici su questa terra. Quindi il regno di Dio pone le sue radici su questa terra, il regno del male, l'impero del male trema. Per le potenze dell'inferno è l'inizio della fine. Naturalmente, fino alla fine dei tempi, l'obiettivo di Satana quale sarà? Sarà il medesimo che si è proposto con Cristo. Cioè, Satana si è proposto di eliminare Cristo e non ci è riuscito, si trova davanti alla Chiesa, e adesso fino alla fine dei tempi l'obiettivo di Satana sarà quello di sradicare la Chiesa da questo mondo, di eliminare la Chiesa di questo mondo. L'ultima battaglia, la più tremenda, sarà quella in cui Satana infliggerà alla Chiesa la medesima passione che ha inflitto a Cristo. Ma proprio quando crederà di aver vinto, vedi 677 Catechismo della Chiesa Cattolica, arriverà il vero padrone del mondo, cioè Gesù Cristo, e lo schiaccerà definitivamente. Quindi, quella rabbia che Satana ha rivolto verso Cristo, adesso la rivolge verso la Chiesa. Come ha cercato di eliminare Cristo, cercherà di eliminare la Chiesa. Hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Ricordiamocelo, ricordatevelo, ecclesiastici, che quando avete la parola del mondo c'è sempre da toccare ferro. Il Verbo di Dio si è fatto uomo. Satana non ha di fronte a sé un semplice uomo, ma l'uomo Dio. Contro di lui non può nulla. La sua sconfitta è già incominciata nel momento dell'incarnazione. Con il sì di Maria, il Verbo si fa carne e il regno di Dio pone le sue radici su questa terra. Per le potenze dell'inferno è l'inizio della fine. Certo, accecato da uno sconfinato orgoglio, il principe di questo mondo medita di sedurre anche il figlio di Dio, arrivando perfino a chiedergli l'adorazione. Matteo 4,9. Colui che aveva sfidato Dio in cielo, vedi Apocalisse 12,7, non esita a sfidarlo anche qui sulla terra. Sfida Dio, Satana, sfida Dio nella sua tracotanza, ha sfidato Dio in cielo, come dice Apocalisse 12,7, e lo sfida anche qui sulla terra. Ma la sconfitta è sicura e procede in modo inesorabile fino alla fine della storia, quando il figlio dell'uomo pronuncerà la sentenza definitiva, via lontano da me maledetti nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Vedi Matteo 25,41. Avendo Dio realizzato il disegno nascosto fin dall'eternità di inviare suo figlio qui sulla terra, Colossesi 1,26, la vittoria sul principe di questo mondo è un avvenimento inarrestabile. Il solo fatto che Dio si sia fatto uomo per Satana è la fine. Cosa può fare infatti una creatura, per quanto intelligente e potente, contro il suo creatore? Meno di nulla. Tu lo vedi nel rapporto fra Gesù e i demoni, testimoniato dai Vangeli. I discepoli si meravigliano che nel nome di Gesù anch'essi scaccino i demoni e affermano stupiti: anche i demoni si sottomettono a noi, Luca 10,17, perché sono di Cristo. In realtà è la potenza di Cristo che agisce e si tratta della stessa forza di Dio. Gesù, caro amico, non è santo, ma è la santità. Non è sapiente, ma è la sapienza. Non è forte, ma è la forza. Non è luminoso, ma è la luce. Non è potente, ma è onnipotente. Il suo Vangelo non è parola umana, ma parola di Dio. Quando Gesù avanza, Satana indietreggia. Questo vale anche per la Chiesa, che è il prolungamento di Cristo, come pure per ogni cristiano che è membro del suo corpo e tempio dello Spirito Santo. Se il Verbo si è fatto carne e ha posto le sue tende in mezzo a noi, vede Giovanni 1,14, manifestando la sua gloria, piena di grazia e di verità, come potrà mai prevalere il regno del male e della menzogna? E dei cari amici, come dobbiamo avere uno sguardo ottimistico, perché molte volte il male fa tanto rumore, il male si presenta come invincibile, Satana si presenta come il dittatore di questo mondo attraverso la carne e il mondo stesso, poi in realtà cosa può, di fronte alla potenza di Dio, è meno che nulla, meno che nulla. E quindi non potrà mai, cari amici, prevalere il regno del male e della menzogna. Se il risorto rimane con noi fino alla fine del mondo, vedi Matteo 28,20, come potrà imporci la potenza del peccato e della morte? E quindi, cari amici, questa è la conclusione ottimistica che facciamo nella catechesi di oggi dedicata alla potenza di Cristo. Di fronte al gran chiasso del male e alle sue apparenti vittorie, i credenti non devono mai perdere fiducia. Anch'essi, come Paolo, anche fra i più grandi pericoli, possono e devono dire: se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Romani 8,38. Quindi, cari amici, nella descrizione della potenza del male, non dimentichiamo mai per nessun motivo la potenza di Cristo. Questa potenza che non è soltanto di Cristo, ma è anche della Chiesa, colonna della verità, che è anche di ogni cristiano. Se noi siamo attaccati a Cristo, se noi siamo saldi nella verità, siamo protesi alla santità, cari amici, non solo il maligno non può farci nulla, ma Cristo si serve di noi per scardinare il suo regno e per sottrargli le anime. Cioè, è tanta la potenza che Cristo ci comunica che noi non soltanto possiamo sottrarre la nostra anima a Cristo, a Satana, per la potenza di Cristo che ci dà, ma possiamo anche sottrarre a Satana le anime che si tiene prigioniere. Scardinare il suo regno, come Cristo liberare i peccatori dalle catene del maligno. Questa, grande, cari amici, è la grande forza che Dio dà a coloro che credono in Lui, ai cristiani, cioè che possono vincere il maligno non soltanto per la salvezza della loro anima, ma possono rapinare quelle prede che il maligno si è prese e portarle a libertà. Questo è il significato della preghiera per i peccatori, i sacrifici per i peccatori, l'intercessione per i peccatori. Si tratta di sottrarre le anime al potere del maligno. Questa grande grazia, cari amici, è stata fatta da Cristo a tutti noi. Prigionieri delle tenebre. Radio Maria, abbiamo trasmesso Il Falesario, a cura di Padre Livio, edizioni Sugarco.